Sono pazzo, che gusto ci provo, andare in giro fatto, chiudermi coi player in qualche palazzo. Ci fosse qualcosa in città, romperei di meno il cazzo. Mi chiedi se sono pazzo, che gusto ci provo, andare in giro fatto, chiudermi coi player in qualche palazzo. Ci fosse qualcosa in città, mi romperei di meno il cazzo. 10 e 5 sullo schermino del bilancino digitale, ho uno split in mano mentre scendo le scale. Già so che fuori non ci sarà un cazzo da fare, gira così per tutti e nessuna da commentare. Qui ci siamo tutti, tutti hanno da raccontare. Qui ci siamo tutti, tutti hanno da fumare. Qualcuno ha qualche grammo in più per ricavare la parte illegale della paghetta settimanale. O puoi finire sul giornale, come è successo a qualche mio compare, per colpa di qualche infame. Di chi ti puoi fidare? Di nessuno! Come di tuo figlio che ti scippa i soldi per comprarsi il fumo. Mi chiedi se sono pazzo, che gusto ci provo, andare in giro fatto, chiudermi coi player in qualche palazzo. Ci fosse qualcosa in città, mi romperei di meno il cazzo. Mi chiedi se sono pazzo, che gusto ci provo, andare in giro fatto, chiudermi coi player in qualche palazzo. Ci fosse qualcosa in città, mi romperei di meno il cazzo. La gente si chiede cosa hanno sti ragazzi che non va. Non si chiede cosa si può cambiare in questa città. Oggi le droghe moda hanno cambiato la realtà. Un player non si chiama player se non si fa. Non parlare di test di fine anno, tanto si fa più attenzione a saldare quello dell'alcol. Svuotaci a tutti in una perquisa, in 40 tasche non trovi una carta visa. Mi sa che non farò tante risate a leggere il giornale che parla delle nostre serate. 20% vero, l'80 puttanate. Di nuovo, ora vuoi sapere che gusto ci provo quando chiedi se sono pazzo, che gusto ci provo, andare in giro fatto, chiudermi coi player in qualche palazzo. Ci fosse qualcosa in città, mi romperei di meno il cazzo. Mi chiedi se sono pazzo, che gusto ci provo, andare in giro fatto, chiudermi coi player in qualche palazzo. Ci fosse qualcosa in città, mi romperei di meno il cazzo.